con Roberto Sampietro, regista del film Il Vegetariano, che sarà in anteprima nazionale a Milano al Cinema Anteo giovedì 28 marzo 2019. Roberto, ben trovato. Salve. Ci presenti questo lavoro? Sì, dunque, Il Vegetariano è un film che nasce da una ricerca sul campo che risale ad alcuni anni fa addirittura, quando sono venuto a conoscenza di una situazione particolare, una situazione di migrazione, c'è una fortissima, c'è tuttora una grandissima comunità indiana in Emilia, impiegata soprattutto negli allevamenti di mucche da latte. E avevo letto su un giornale che questi indiani erano molto ricercati per la particolare cura che loro avevano nei confronti degli animali. E mi aveva anche incuriosito un'ulteriore notizia che avevo letto, in cui si diceva che un indiano aveva avuto dei problemi sul lavoro perché comunque si rifiutava di macellare le mucche che non erano più produttive, di mandare a macello le mucche che non erano più. Questa notizia così, insomma, di cronaca mi aveva molto colpito anche perché io ho sempre avuto, come dire, fra i miei interessi che covavano lì, sia da una parte appunto l'animalismo, l'idea del considerare gli animali come qualcosa non semplicemente da usare, ma che avessero anche loro una loro dignità di vita, sia la filosofia indiana, io ho fatto filosofia ai tempi dell'università, la filosofia indiana che mi ha sempre affascinato e quindi leggere questa notizia è stata per me un po', come dire, la spinta a cercare di unire questi due interessi in una storia che mi sembrava insolita, ecco, cioè l'idea di raccontare la cultura indiana ma ambientata nella pianura padana. Questa è stata un po', diciamo, la nascita del film. Ecco, come hai deciso di sviluppare la storia? Sono partito proprio da questo spunto, poi per diversi mesi sono andato, quando avevo del tempo libero, in quelle zone, nel Reggiano, nel Mantovano, dove ci sono anche molti templi induisti e Sikh, che sono anche luoghi di aggregazione. Sono andato là per raccontare un po' le loro esperienze di vita, di migrazione, raccogliendo molti spunti interessanti e pian piano da questi spunti è nato prima un soggetto, poi una sceneggiatura, ecco. Una sceneggiatura che racconta un po' la loro situazione, le loro difficoltà, ma anche la loro integrazione, perché la comunità indiana è una comunità molto integrata nel territorio in cui vive. E da lì è nato un po' tutto, ecco, diciamo. Su cosa hai voluto puntare nel tratteggiare il tuo protagonista? Rivelare tutto del film. Ho puntato sul rendere il più possibile appunto la situazione, anche il contesto, e quindi c'è un indugio quasi un po' di tipo documentaristico anche su tutto lo sfondo della vicenda, cioè i luoghi in cui questi indiani effettivamente vivono. Ci sono delle riprese all'interno di questi improbabili templi induisti e Sikh, piantati in mezzo alla pianura, oppure in altri luoghi dove lavorano, ovviamente nelle stalle dove colpisce vedere questi indiani, alcuni col turbante in testa, fare quei lavori che gli italiani non vogliono più fare. Direi quindi che su una situazione reale, esistente, si è innestata poi la storia del protagonista. Osservando e andando a studiare questa comunità, come sono le sue relazioni all'interno e come si pone anche rispetto all'esterno? Direi che la comunità indiana appunto è una comunità molto ben integrata, e questo era un altro aspetto che mi interessava di questa vicenda, no? Cioè raccontare una storia di migrazione che però una volta tanto non ci presentasse davanti agli occhi i soliti contesti o di periferie degradate, di violenza, no? Di dolore, come spesso le storie di migrazione fanno. Qui c'è una situazione appunto di integrazione di gente che normalmente lavora, che ha un buon rapporto con la gente del posto, eppure anche qui, come dire, possono sorgere, come dire, dei problemi che però sono anche dei problemi secondi, nel senso che due culture diverse che si incontrano portano probabilmente, o dovrebbero portare tutti a una certa riflessione. Questo atteggiamento, per esempio, che molti indiani hanno rispetto della vita, per tutti gli esseri viventi, non solo quelli umani, è qualcosa che spesso non si adatta molto ai modelli di produzione di allevamento intensivo che abbiamo noi in Occidente, no? E quindi trovo che questo loro atteggiamento possa essere un motivo di riflessione anche per noi occidentali, molto importante. Dopo l'anteprima milanese, che tipo di distribuzione ci sarà? Il film esce in varie città, sono già programmate varie proiezioni in varie città, essendo una distribuzione indipendente, diciamo, procede un po' per regioni, per accordi man mano, che poi bisogna vedere anche appunto un po' il film come va. Comunque in 3 ore è già programato in diverse città, molte anche nella pianura emiliana, dove si comunque ha suscitato interesse, poi esce comunque a Bologna, a Firenze, tante città principali, ma anche a Roma non è stato ancora definita esattamente la data. Comunque ci si immagina di coprire un buon territorio, ecco. In chiusura ci lasci dei riferimenti web per saperne di più? Sì, dunque, i riferimenti web, c'è una pagina della società di produzione A Papaya, scritto con la gente A Papaya, è vegetariano, lì si può trovare tutto, ecco, insomma, tutta la programmazione aggiornata, citando A Papaya, Facebook e tutto quanto. E allora ricordiamo l'anteprima nazionale a Milano, al Cinemanteo, giovedì 28 marzo 2019, del film Il Vegetariano. Un saluto e un ringraziamento al regista Roberto Sampietro. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto.